sentito Daniele, siccome dovevo passare stamattina, ho visto che non è passato, per lo smettere l'antenna, allora sono entrato. Chiappa chiappa, va bene. No, cazzo, non si può più parlare nei canali bassi, c'è gente così maleducata, cazzo, uno sta parlando, le fischi sopra, ti metti a ruttare, ma che cazzo di modo di parlare è questo? Io no, poi si lamentano quando non c'è più nessuno. Ma per forza, se fanno schifo, cazzo, per forza. E allora ce ne saliamo qua in alto, possiamo anche andare al 48, al 50, ma stare nei canali bassi è un troiaio, guarda, un troiaio. Va bene, avanti allora, Uranio, riprendi. Buonasera, dunque, davvero, beh, hai ragione, purtroppo i maleducati esitano sempre, non sanno, diciamo, comportarsi, manco, sicuramente, manco a casa loro, e così fanno lì anche, diciamo, le frequenze. Vabbè, cosa ci vuoi fare? Cosa ci vuoi fare? Vabbè, comunque, ben sentito, ben sentito. Comunque, mi pare che Gianni abbia migliorato qualcosa, e vabbè, là, non è possibile. Ci ha fatto il posto canale, no, perché Gianni mi sa che noi ci sono qua, invece qua facciamo lì, allora. Comunque, ben sentiti, se non c'è amico, la comunicazione, fa bene, bene, bene, e fate pure il vostro discorso, cambio. Ci sono discorsi da fare, no, Uranio, sono già fatti i discorsi, capito? C'è troppa gente maleducata, quindi bisogna evadere, perché non va bene così. Vado avanti, Daniele, riprendi. Cava, via Forlanini alle porte, sono via Forlanini alle porte. Buonasera anche gli amici, se mi sentono qua. Io sono piccolo piccolo MBM, cambio. Attenzione, canale 45, copiate Antonio Bombolo. Ciao Antonio, è entrato Bombolo Antonio. Ciao Antonio, buona serata per te. Ehi, buonasera Claudio, buonasera a tutte. Positivo, però male, l'hai conosciuto subito. Che a te Luigi. Caspita, non ti conosco Luigi, non credo che ti conosco. Pensavo che mi scambiate con Claudio, pensavo. No, non ti ho scambiato, salutato il Claudio e poi mi sono dimenticato di dire il tuo nome. E saluto anche a Daniele. Buonasera tu, a me è un caso raro che mi trovi di domenica qua, Solo che l'abbiamo passato in BM, dovevamo controllare una cosa ieri e la controlliamo adesso. Buonasera, ben ascoltato tu. Beh, buonasera anche da parte mia, dai. Beh, sporvile! Mi ha schiacciato il portante che mi bruci tutto qui. Mi rubo a Claudio 5 minuti che sono arrivato qua sotto. Sì, gaffa, dai. Non c'è problema. Tanto c'è anche Gianni Lippi, ma di Chiaramonti e Uranio da Deus. Saluto tutti, saluto tutti in circolare. Pagava, avanti Gianni Dinamite. È positivo Bombolino, sicuramente Uranio lo sente. Ma tu stai operando quella radio famosa, quella con lo zero finale. Già va bene, ma col microfono normale è stato operato. Si sente il microfono normale. Sì, piano, un passo alla volta, dice quello. Un passo alla volta, un altro giorno, ti compri il microfono suo, già tu dirà Claudio, e vedi che la cosa cambia anche come tonalità, come musica e come tutto, di tutto cambia. Che canale sei? Aspetta un attimino. Massimiliano, tu sei? A che canale sei? 45 sì, no? Non ti ascolto bene. Se sei nel 45 ti ascolto spostato. Sicuro che sei nel 45, non sei un altro canale. Ma guarda, non sei nell'FM. Prova a vedere a parlare. essere fuori, non sei in questo canale. Oh, ma che arriva lui? Lo senti tu a Massimiliano? Oh, Anto? Neanche arriva qua, vedi che c'è qualche problema. Non è il 45, è il nostro canale. Oh, sto cercando di capire pure io dove sia, beh. Massimiliano, non sei nel 45, mi. Ti sento di sbattere come dice il nostro canale, mi. Aspetta un attimo, prova, parla un po' a lungo. Massimiliano, parla un po' a lungo. No, se mi sposto di un canale non ti sento più. Sì, ti sento come se disperato di un altro canale, mi. Ma cosa sei trattene? Tu, perché tu a me mi senti chiaro? Se tu mi senti chiaro, non lo so. A te accendo l'altro baracchino, aspetta un attimino. Non arriva qua, non lo è. Prova a parlare. Aspetta un po' meglio, prova a vedere. Non è chiaro, mi. Adesso sono, ho acceso l'altra radio a ascoltarti, Massimiliano. Prova a vedere. Macchina. già riprenditi il mic. Franchetto, salutone il bel sentito. Lo saluto anche a te. Ecco, ti snotto e usa dos. Che mi conta, sai? Fra un po' avete i pantaloni e faccio una passeggiatina a vedere. Va bene, che ci vuole prendere una boccata d'aria, ci vuole ogni tanto tu. Se no chi dorme non mangia pesci, attenzione. No, chi dorme non piglia pesci, si dice il proverbio. Ah, non si dice chi dorme non mangia pesci. Stiamo dicendo la stessa cosa, ma non ci siamo capiti. Ma non si dice chi dorme non mangia pesci? Il Dio confermi? No. Comunque la stessa cosa, chi dorme non piglia pesci, però chi dorme non ne mangia pure, la stessa cosa. Positivo, io ho fatto andare così, dai. Bene, mira, e ti si nota del Santos. E che si conta, ma come caldo non ne sento oggi, a dire la verità. Sto benissimo, c'è una dieta, si sta bene, anche ieri si stava bene, c'era caldo, maledizione, però come siamo andati ieri c'era fresco, diciamo che era tipo verande grosse, aperto sotto e faccia a mare e l'aria circolava dentro, e anche per il zoma circolava. Va bene, quando circola il perizoma la cosa è positiva, beh. Dando un controllo Gigi di segnale a vedere un po' e di radio, Allora il segnale sei Santiago 9, Scillante 920. La radio è perfetta. Bravo, da te a Tullio. Ah, qua c'è Santiago 910 e Radio 5. Va bene, vi ringrazio. Scusate, mi sta squillando il telefono. A frappì. Dai, ya. Se no me la sei comprata, dai. Ce l'ho già. Cosa c'hai? 448. Ah, ho capito. Napoletano. Napoletano. Ma questo è sardo, non è napoletano. Questo l'ha fatto Roberto. E invece quello è napoletano. E l'altro è napoletano, ma sono belli tutti e due. Già, lo credo che sono belli già. È fatto nello stesso modo, sono fatti gemelli precisi. Gigio, via. Come mi ascolti? Siamo sotto casa. No, io ti ascolto bene, Claudio, benissimo. La radio è perfetta, è chiara. Ora, non fare il segnale da più alto, ha abbassato un po' il segnale, ma forse è perché zona più cosa, prima il segnale era molto più alto. Aspetta un attimo, la radio è buona, è buonissima, va benissimo, va a posto di stazionare, qua a posto, devi stare controllando gli stazionari, Claudio. Sicuramente sì. Sì, ma se tu al 2001 l'attacchi alla cappotta e la metti fissa, sei tranquillo, stazione c'è, però con la base magnetica giustamente la cosa cambia. Beh, io darei un consiglio, di non usarla mai sulla base magnetica con l'antenna. Non la usa nel furgone lui. Sì, ma nel furgone è una cosa, però quando si usa nella vettura devi cercare un'altra antenna, troppo manna è positivo, positivo è tapparoggero. Non so se ha cambiamenti dal furgone alla macchina. È blu sopra, sempre sopra la cappotta. Sì, sì, conviene sempre prendere un'antenna più piccola per usarla in macchina, anche che fosse magnetica. È positivo, eh? Positivo è da fare il giro. Domani me lo faccio un giro in camion questo qua. Sai, quella che fa bene, capita, che non è molto lunga, che avrei usato anche in macchina nella cosa, la Turbo 48. Non la conosco questa Turbo 48, non l'ho mai vista. Dico che va bene, non ha grandissime prestazioni, però va alla grande. Certamente non è come, cosa ti posso dire, come una 5000 Turbo, non è, però rende perché ce l'ha avuta anche una persona e andava benissimo. È positivo, può essere pure, può essere tutto cambio, madonna, a me Claudio, hai fatto l'aerosmetrata questa antenna, Claudio. Gigi, allora praticamente quando abbassi la potenza stazionale non è, quando sollevi la potenza c'è stazionale, però la luce non si accende qua, come mai? Si accende la luce, ma quanto sono queste stazionali? Perché inizia da, si accende quando oltre i 3, cosa si accende? Inizia a 1,8, modulati sono più di 2, capito? Ma così non si accende, ancora lì, ancora nei limiti. E comunque la radio funziona bene, dai, non ci sono problemi. C'è la base magnetica tutta rotta, la piastra della calamita tutta rotta, G. Ma deve stare attento, perché dobbiamo attaccare nulla, se lui attacca quella cosa così, le stazionali salgono, mi deve stare attento il furgone. Non so se... Adesso l'abbiamo pulita, sistemata, adesso sembra che vada bene, dai. Com'è il segnale di da te? Santiago quasi di 5. No, la radio è una radio di 5, il segnale è basso, Santiago 5, però la radio è di 5, è una radio di 5. Va bene, dai, già va bene. Se c'ha 2 minuti, perché io la chiave non l'ho trovata, limite gliela controlli tu. Io l'ho smettata ed è più di 2 qua comunque. Ascolta, aspettami Claudio, in questi canali dove è più alto, sopra o nel normale? No, da tutte le parti uguale. Positivo, yeah. Ciao Luca, sono alti sia normali che sopra. Via, dai, sto prendendo colpi dal falchetto che è nel canale 4. Se c'è tempo Daniele passa e le do uno sguardo, perché io non ho la chiave G. È positivo, dai, no, poco da fare c'è lì, poco da fare, vediamo vedere come la, è troppo lunga rispetto allo stilo, rispetto alla base magnetica, perché poi se la mette fissa non va più bene quell'antenna, si dovrebbe accorciare un po'. E qua non lo so, comunque da rivedere qua la situazione, dai. Ma boh, vi saluto, dovevi andare via Daniele, ci sentiamo dopo, ciao a tutti. Daniele. Ehi G, non ce la faccio a passare, sto andando a fare altra roba con la signora. Già un altro momento, sono tanto domani attacco tutto in furgone, ma lo controllo con Massimo. Positivo dai, tanto ci vuole un po' di pazienza, ricordo, per controllare, dai. Non è la fai così. Niente, bisogna fare delle prove, delle controlli, perché sennò è un casotto, capito? Bisogna fare dei controlli, di controllare dove, sennò se tu accorci lo stile poi è un casino, prima di accorciarlo bisogna verificare bene le cose. Luigi, male andando lo vendono lui? Sì, è lo so che lo vendono, l'antenna vende. Ma se l'alta per quella cosa lì, poi ce lo deve mettere fissa. Ho detto, male andando la vendono lo stilo, o no? Sì, lui si deve prendere, già la vita sua a Borgomanero, le basi magnetiche a 3, a 3 ventose grandi, tu sopra la cappotta, chi sai, e poi attaccare lineare che ti pare ti piace sotto. quelle sono delle belle, a tre cose sono, a tre cose magnetiche sono, chi si suppone? Vero, io ne sto cercando una a lui. No, io lì sul continente ce le avevo, non so quale capote della macchina. A tre cose, a tre calamite, hai capito? Una piastra fatta con tre calamite larga e pigliava un raggio manno. Questa è fatta apposta, aveva un vedo basamento di massa ed è perfetta. Con chi si va alla grande? Gaffa, ma se ci riesci a buscarla una? Ho visto quelli prima che c'ha coso, Fusaro, se l'ha portata, non so, ma le prima c'erano. Le ho viste di prima, e assai da in quelle di prima, assai quelle erano invece, in quelle che non mi ricordo che l'ho date, poi sono date a Sandro, in quello di Reggio Emilio della Procel, entrando in computer sulla Procel, e davano quelle basi magnetiche lì. E allora me la compro, perché ho comprato la M da Fusaro, ma è buona però, funziona bene. E se ce l'avevano tutte sopra le capote che sono venuti lì in vettura, macchine grosse, e a tre calamite, hai capito? E al centro c'era l'antenna, è una base fatta che c'ha tre posizioni con tre calamite, hai capito? Vabbè, adesso appena che lo trovo me la compro. E che li stacca più quelle calamite, quelle fanno una bella presa e va benissimo. Ma mi sentono loro! Daniele, mi senti? Ora! Ah, già mi senti già! Hai visto? Pure da qua arrivo! Avanti, Daniele, motrice impazzita! Chissà chi te l'ha messo questo nome nativo! Chissà chi te l'ha messo questo Daniele, motrice impazzita! Cava, padri, motrice pazza, non mi so capito, A posto di motrice pazza ha scritto motrice impazzita, è una maglietta. Io ho visto. L'ho visto. E poi molti quando mi chiamano in preparazione, dico motrice pazza, dove è questa motrice impazzita? E quindi a lui sicuramente ha scritto così, ma lo so, non me ne sono accorto, quando stavo rientrando. E te cosa, Daniele Motricciaro, c'è? Daniele Motricciaro, amico mio, c'è. Che non sta più modulando questo periodo, comunque c'è Daniele Motricciaro. Infatti, cosa, Daniele Primo non pensava che era Motricciaro, ha detto no, Motrice e parco, cazzo c'è ragione. È positivo. Oh sì, Daniele, adesso. Sta partito la casa di Claudio, scende da via Milano. Che non appassi. E a che sento già Luca di Luca del Monte? Ma cosa uscivo? Aspetta un attimino. Pensavo di non uscire. Allora, ma siamo qua. Oh, ok. Vabbè, allora, si dice. Devo sentire la qua passando una decina di minuti là dietro questi barattini. Che dico, c'ho fame, un bel piatto di pasta, volevo mangiare anche di più. Ma sono visto la vecchietta, ma se mangio adesso io do per 9, alle 10 massimo, sto proprio mangiando, perché il problema è mangiare alle 9, quindi mangio alle 11. È positivo, dai, ieri ricordo che ho mangiato abbastanza, mannaggia, ho mangiato un bel ieri a pranzo. Mangiato parecchio. Dimmi una cosa, Luca, di cosa ti sembra questo birichino, questo sto collaborando in questo momento, cambio. Va bene, accettabile. Luca, non lo sono fatto il profilo, ci sono riuscito io a farlo. Buonasera a tutti, riprendo ma le mando un curriculum, un minuto che sto facendo cosa, ci sentiamo dopo. Che cazzo, hai stampato, ma però mi trovi, Facciamo, mi dai il coso giusto, così io ti cerco, se non è che mi trovi tramite Daniele, tramite Antonio Gombo, tramite Gigino, sì, se no non mi trovi, se no hanno la lista degli amici, se no non mi trovi, No, è chiuso, è chiuso. chiuso, no? L'ho messo a protesto, nessuno può vedere niente, nessuno può fare niente, dai. Per il momento c'ho a Massimo e a Costanza, dobbiamo fare un profilo e poi piano piano vi chiedo l'amicizia a tutti, dai, non c'è problema. Non c'è problema, dove posso avvisare che lo. Che lo, me lo sono fatto, capito? Comunque è Claudio Sparviero e basta. Ma se mi viene nuova chiappi, se tu scrivi sotto appunti, non mi trovi qua, aspetta un attimo, sono arrivato qua. Non mi trovi, se tu scrivi sotto attimo Luca Appunti, che come cosa un tatuaggio, un tatuaggio mio c'è un braccio, controlla, non mi trovi qua, no, ma chiappi. Ma hai fatto, ma ti ho detto io qua. Ehi, è positivo, sì, ho messo l'account protetto e quindi nessuno può entrare, dai. Facciamo diventare un troiaio come era prima, quindi le chiedo io a chi interessa a me l'amicizia e basta, siamo tutti, stanno lì a entrare, a vedere, a fare, tanto non c'è niente, né foto, né nulla, lo lascio pulito, pulito, giusto per le comunicazioni e basta, tutto qua, dai. Ma il problema non esiste. Quella che non esiste, non esiste perché l'account è protetto. Ma non è protetto, l'ascolto le mail è diverso, è l'ascolto le mail. Prima di fare Facebook. Beh, l'email è sempre quella, certo, gliel'ho riconfermata. Password nuova. No, gli ho protetto proprio l'account. Quindi se tu non hai il mio consenso non puoi neanche entrare, capito? Non mi trovi. Claudio, allora ricordati che tu ogni qualvolta che fai Facebook, ogni suo Facebook ha la sua email. Tu lo puoi usare, se tu hai bloccato l'altro e usi nuovo l'email con la cerchia possibile, tu la puoi utilizzare. Ti fa un'email nuova. No, me l'ha accettata l'email, non c'è problema. C'ho sempre l'email dell'animatore, me l'ha accettata, tutto. Sono alla pagina. Ho già fatto, mi ha dato un'amicizia a Costanza, ho chiesto amicizia io, Vannino, Costanza e Massimiliano, siamo per il momento. Ma scusa un attimino, quella che vivi prima, no, allora. Quando abbiamo fatto il Facebook, se ti ricordi, l'avevo fatto io, no, se non sbaglio. Sì, l'avevo fatto io. Abbiamo messo l'email con la Claudio Sparviero, chiocciolatrui.it, non è quella? No, l'email è la mia, quella del radioamatore. E l'account è cambiata. Prima era Claudio Marti, adesso invece è Claudio Sparviero, basta, capito? Di cambiare email nuova, fare un account nuovo, ma ci vuole email, se tu usi Twitter nuovo quella, non te l'accetta. No, non ti avevo capito. Vabbè, lasciavo l'email sempre quella, sì, la mia è sempre quella della posta elettronica, gli ho messo e così sono a posto. Non mi dimentico di niente perché quella lì ce l'ho a memoria, la password ce l'ho a memoria, quindi non ce l'ho già dentro la pagina, capito? Però l'account è protetto, se non c'hai il consenso non mi vedi. E quindi adesso man mano che chiedo le amicizie e poi lo consento io, vai. Va bene. Dove sei arrivato Daniele? Voglio avere il segnale. Qua a me, preso ora la camionale direzione Alghero. Sì, 9 più 20. Dovrebbe andare bene così. Però ricordati, quella magnetica te la devi comprare nuova. Perché il magnete è tutto rotto e sta disperdendo il piano di massa, capito? È proprio spaccata, già l'hai vista com'è. Quella bisogna metterla nuova, la base magnetica, se vuoi ti funzioni bene l'antenna, e poi darle leggermente una taratura. Allora, poi mi dici con quanto stai uscendo, perché anche nel sottopassaggio ti ho tirato fuori. Io sto andando con 440, 20 watt di portante e 50 modulati come sempre, queste radio ce le avevate sempre così, 20 watt di portante e 50 modulati, è difficile che le tocchi, capito? È difficile, quando volevo aumentare la potenza cambio apparato e vado col baracchino, questi sono tratti così perché vanno bene così, Daniele. Sì, va bene. Va bene? Pagava, eia, Gisari, mi ascolti? Certo, Santiago 7, scilla pure quasi a 8. Se vuoi venire da niente, se devi comprare, comprati una base magnetica, quella base magnetica, cioè, sono messi a tre, non è che se sono sopra le cappotte lì con il poco manero delle macchine. capito. Ehi, ehi, ci sarei. Angelo ce l'ha così in macchina, passiamo, ce l'ha così. Siamo bene, te la troveremo, mettiamo quella che è meglio in macchina. E poi rimane anche sollevata l'antenna, capito? Tanto che invece poi non te la dice la capotta. Comunque adesso è migliorato moltissimo, Daniele. Tratto? E adesso ho preso la salita, so che sono una meccanica qua. Nella camionale poi ci diamo per le quattro corsie di Alghero. Ma adesso è migliorato moltissimo, da come era prima adesso è migliorato. Non l'abbiamo tutta pulita, tolto magnete, pulite tutte quelle, quella polverina che c'è, quella stava facendo sicuramente rientro. Adesso va bene. Comunque fatti controllare bene lo stilo. Stazionari e già sono, insomma, non sono molto affidabili, ma comunque più poco di prima ne hai. Oh signori! Hey. salire, che salgo su, fate una rampa, per salire su, la tocco, ma non fa niente. Lo so, però purtroppo è fastidioso, tragitti lunghi va bene. Tragitti lunghi va bene, ma prende anche la piccola, dai. Ma pagava, per la macchina stavo pensando di prendere l'Hercules Mini. Sono la di un baccano, ce l'ha. Ma quella se tu non attacchi, come dico io, ne la perdi. Già ti smonta la cappotta, già, perché è pesante come antenna, è grossa. E ti butta giù la cappotta, te la rompe. E con la base magnetica ci vuole quella a tre calamite, che se no ne la perdi. Daniele, dove sei? Io qua, arrivando alla fine della 4 Croce di Alghero. Quasi arrivando. Di Alghero non vuoi sì, dai. Comunque metti a posto la base magnetica perché così non va bene. Diego, per me, dai, ce la risediamo dopo. Ehi, a bombolo. Tu. Cosa hai detto, Daniele? Che per più che altro per l'antenna, l'ho preoccupato per l'apparato. E devi stare attento, devi stare attento. Con la base magnetica non va bene, con l'antenna va rivista e se vuoi uscire bene, con la base magnetica, compratela come si deve. Vedrai che problemi non hai, perché con la base magnetica non serve a nulla. Cava, no, mi sa che faccio con le tutume. Mi aspetto una sera, perciò tempo. Quando sarò in piedi, devo essere in piedi da domani, invece niente. Se finisco presto, non rientro a casa, non lo faccio. Lo facciamo, facciamo bene. Vieni qua sotto, lo facciamo assieme, non c'è problema, capito? Si attacca l'antenna che c'hai davanti della radio, c'è già il foro, si mette il morso, tutto e l'antenna te la metti fissa e hai risolto il problema. E quella della radio te la metti a coso, di quelle preamplificate a vetro, capito? E io sono, ce la metto lì sopra, ma lasciamo lì dopo il tempo, la mettiamo per l'antenna e la colichiamo lì davanti. Funziona lo stesso, non c'è problema, già va bene lo stesso, tanto credo che radio ne usi poca, tu avrai CD come tutti, quindi quel poco che usi già si sente lo stesso. Comunque Santiago 9 se si era entrata di Alghero. Come sono? Hola, attenzione, Sparviero, senti, stiamo ricevata quasi, ora tutto bella. Santiago 9 sì, qua, non ci stanno problemi, Santiago 9. Voglio sempre quattro fatti del baracchino sono, io ti ascolto, Daniele. E lì sono i dati dei miei, cosa ti devi dare? Signore, io vi saluto, alle prossime. Ciao. Sandro, fate buon rientro, buon tutto. Vai Luca per Daniele a vedere se ti ascolta. Se lo senti otto lui ti deve sentire, vai. Daniele, mi senti? Yeah, mi ascolti sempre. Ah, salve, mi scesa, niente, adesso. Santiago 7, sì, dai, già va bene. Santiago 7, radio 5. Ti volevo, ti volevo, ti volevo. disegnino. No, no, no, non ve ne disegnino, lascio tutto così, aspetta, rispondo a Massimiliano. No, mi conoscevano tutti dalla foto, Daniele, capito, e quindi non metto niente. È stato proprio lui, mi ha convinto Massimiliano perché a volte mi manda, mi deve dire cosa, capito? E allora mi manda i messaggi, non li vedo, qui e là, il telefonino, e allora ho deciso di riavviarlo, ma proprio roba strettissima, capito? Roba molto molto stretta. Non voglio che nessuno veda nulla. Non li riconosci nessuno a me. Aggiorna la pagina, fai F5. Cosa? Aggiorna la pagina, ma troppo alto sono. No, non ho capito, ho già detto. Aggiorna la pagina, clicca F5. Ti dovrebbe arrivare l'amicizia mia. Daniele, mi senti? Viene. Ma sono basso, non lo sento più. Daniele, Luca non ti sente più, dove sei? Ospedale Marino, via Lido, quindi sei dentro il ghiero, Santiago 7, Radio 5. Daniele! È basso basso, attiva. È basso basso. Ma Daniele, ti saluta anche Luca, che ti ascolta basso basso. Cosa hai detto? L'ho fatto il F5, vabbè, ho già creato il giornato. È arrivata l'amicizia mia. Sì, c'è un'amicizia. Ma il F5 cosa fa? Ma si blocca, magari non vedi che non vedi sempre le stesse immagini, Tu prendi e poi F5, leggi la pagina. E vedi tutto quello che avevo inviato, no? A casa impostare bene, non è così, no. E devi fare ancora, sei nuovo e devi impostare bene le cose. Allora devo parlare in italiano, ma oggi bocca nuda, io conosco quei pochi amici, ma non funziona nuda la pagina, chat, boh, e basta, vedo il messaggio che mi mandano, boh, cosa ci importa, caricarlo, non imposto giochi, non imposto niente, applicazioni, nulla, ho messo tutto a zero, nascondi, non voglio sapere nuda, non mi ha fatto un cazzo. Faccia parte il boobies, ma ci te l'ho mandata, boh, fai tu, K. Più cane così, è il somarello di tutto Sassari, il sindaco Canao, cazzo, gli dite le brucerate a Conca. Non è il sindaco Canao, è Cecchi Canao. Oh, Cecchi Canao, che sia. No, no, io non so quello, non c'è tanto parte che è una cosa che deve passare di ruolo, Jack, non... Jack Canao è doveroso che sia riconosciuto come tale, capito, per tutti i casini che ha combinato. Sì, e per come tale bisogna trattarlo. Basino, compreso. Ehi, non è di io gli ho promesso un'ottima pubblicità, io la sto facendo, non c'è problema. Chi su uomo che metto su Higher? E infatti, a te. Vedi che sa musica isso, vedi che sa musica e basta. Bello, compreso, uno perché quelli come dei sei selli vuoi pucellare, eh? Intende? Ehi, a te. Ma intende, intendete cosa? Sulla mia canzone che ha fatto quello compreso praticamente se balli in una camera no aiutare l'ammazzo lo trombo lo spacco in due sono Canao lo spartatore e la fanno c'è qui l'intrasciutto dei cittadini il cuasa cazzo ma la gente ne può tenere musica lo si intende? Già lo intendo. E subito è cagato, mi non passa la paga ancora, io sono che cazzo, no candidate, porca l'età di Dio, l'amato, grande macellaio di tutto Sassari, il macellaio della USL, USL, macellaio Canao, macellaio. Jack Canao, il macellaio number one, il macellaio telecamerato. L'inventore della zona Trappole Lugubri, delinquente matricolato. comunale, imbecille parastatale. Ma chi più ne ha più da me? Guarda, sei uno, ragazzo, però guarda, ragazzo. Se mi ho scato la mamma, cazzo, ne ho comprato subito. Ui, compreso. Quello che fa adesso? Casi non abitare. Sì, ma sarà troppo tardi perché Jackie colpisce ancora. Jack, lo squartatore, adesso. In arte Jack Ganau. Jacques Ganau. No, è Jacques Ganau. Francese, cazzo. Ah, sì, sì, mi te quello vai, vuoi un altro c***o? Jacques Ganau. Lui gira per le zone tra il pubblico di Sassa, ragazzi, come incontra la vittima, lo squartano dalla zetta. Prima multandolo di 90 euro e poi sputellandolo in sala operatoria. Ai ai, e lui, guarda, mi deve stare lì, guarda. Domani stiamo percorrendo un tratto, guarda, che Dio me ne scaldi a libero. Ma come si fa? Come si, io mi domando, come si fa che un sindaco, sia anche il macellatore dell'ospedale di Sassari. Come si fa? Come si fa? La musica, la portante c'è, mi dico. Capito? La porta sempre sotto, mio Tilibri. Sutta, sutta che lo montano. Sutta che lo montano sul rame, che lo masellere. Sempre facendo se chi c'è, mi. Mo. Poi c'è lì chi è che si vuole zona. Compreso, c'è lì questi brutti animali che non si esatte, lì a liquidi. E che non è mai la gente, cazzo, che non è niente la fatta così così, l'ottola di bentrati, paccato su mare, e come non fa cazzi causa? Compresa, perché tu non sai ne fai, no? Beh, so sai, non lo dicevi, ma non mi ha bussato, so vedi, so sai, no? Cazzo, se l'ho appena fatta a me, a te che mi bussato, se mi devo bussare lasciato, lei ha fatto sulla faccia altrettanto come te l'ha fatta a me, solo che mi l'ha appena paccato appunto. E io metto il minimo. Già c'è per la calicone, ragazzi, secondo che cagata l'occhio di un'operazione e tutto. No, la sabbia delle due. E tra poco leggeremo. No, ragazzi, dai, c'è un buco di semantica. Sì, non ho bisogno di andare a sicuro, no. Ma se devi paccare siamo qui in diretta, isso. Oh, c'è un figlio al fomello. Se non mi dico che non servirà a nulla. Boh, mi fa che si schifo. Oh, c'è un figlio al fomello. Che è veramente impiccato, ragazzi. Jacques Ganau, ragazzi. Jacques Ganau, ragazzi. Vabbè, guarda, molte volte non bisogna manco paravolas a lei, ne ha rinuda lui, ragazzo, tanto mezza essere che mezza rimane. Magos, tu devi ritirare lo stipendio da sindaco e da medico. Anzi, adesso nella busta paga, c'è scritto sotto, Jacques Ganau. E lo dato, come li chiede negare, come li chiede su muro, mi do di luogo in tartare, hai perso così? No, io ho capito di tutto. Ehi, già mi lo vengono a chiedere chi si c'è che canau, ma si li chiede questa cosa su muro, sono che non per esempio, ma veramente, a solo quello, con passo quello lo dirigimo, sono pago, questo animale. Ma il sette d'ore, no, che non fire... Dottor Bibos. La sirena. La sirena è tanto messo manicomio. E già me sei andato passo se no. Arriva Jack e Danau, guarda. Tutto la conveniente, fu interesse fra il denaro. E non lì si è studiato che mia lingua, l'imbasa, le mesa però. Bello, compreso. Poi te che si comprende questo sai, no? Si comprende benissimo isso. E non l'ho mai compreso, e tu? Ma devo, a dire la verità, fanno una bella salucca, cazzo, solo più fiato si intende del bassano. Arrate le mentua. Arrate le mentua. Non so, ecco qui c'è un'altra, di aver capito questo uomo come te la conso, a buona barra, siamo a cellaio qui c'è. Anche se va a cellaio è meta, ma meta più bravo, cazzo, solo questo è, ma a cellaio di carne umana, cazzo, capisci? Su mattellaio è mattellaio che ti abbatte su animale, io è mattello sopra il chiaro, che bello, capisci? Infatti ha sbagliato carne, compreso. Ora, è sabbidere. Pompende, come ti arriva io? Ehi, delusso, delusso, è Pompende. Compreso. E allora ti sembra un po' di piestino. Attenzione, attenzione. Jack Danau è per le vie di Sassari. Attenzione, attenzione. Chi masella da Montone. All'intendere, all'intendere. Ehi, ehi, grazie, scusate. Sì, arrabbiato, sì. E penso che qualcuno che fa tenere con l'occhio da suo comune, ma la fa quello che devono le tutti, quello che suo comune e tutto. Devo la forza. Un peso, ma che ne fate a bere, però? E su su, ragazzi, che sta da una colonna, ragazzi, che sarà una. Bello. E devo la vendere. Ah, che si fulmine, ragazzi, mi dice che si bruia ne usate le camere, che bisogna che usano via, sono un la faccia sua, ragazzi, la se faccia il buco più solente, c'è che da una uva. Che la salimento del mese, ragazzi, prova a vedere. Ah, famoso, che non è stato puzzinoso, ragazzi, c'è la pedo che sarà fa che sa cosa giusta più che rompe sul buttone, la sala senti che la maglia, la conca, ragazzo, sindaco e mezza. Può essere mezza del sindaco. Oh, merda di sindaco, guarda, galleggiante, ragazzi. Miserabile che avessi altro, guarda. Viene delle buone pure che si ripaccano la faccia, ragazzi. Allora, ya. Però carità, così ne che è mezza che è contato, guarda. Lì mai la seccanda, e anche lì qui da fuori. Ehi, infatti, la seccanda sono... La seccanda, no, seccanda, non chi lo manda, tanto ormai sono... Io che è contato, sono mandato da quasi... Volato, si è capolato, si è capolato mio, preso, si è capolato. Ehi, si cava solo. Sono solo un mondo là. Cate che la rompa me la metà senta da voi, le ha provvedimento di su di tutto. Lo infatti. Capirete. Tanto la sa prima votazione li vuole una butta in culo. No, me la già la butta in culo. Ehi, lì. Ma non è normale conca questo uomini. Non è normale conca. Tamponato io non potrei fare che due cose, sa. Ma fai che su sindica si vede un bubbulo, che è buttone, se. E io lo comprendi te che renare una cecchina, una fittale, non è facile. Compreso. Isso, ma fai che bene se trova io soffio, ma vedi fai che bene su sindico. Ui, la sapete che noi... Non mi credisci la tua... a gestire una popolazione, dai. Non mi credisci, dai. A parte che non la controllo se ne andava. Niente, sempre stato un canale rozzomosi. E non penso di piccare di su a gestire una città, ragazzi. La sa vedere, no, non è gara. Ehi te Jesse, mi sa, buttano non dico, ma sa comunque era io e te poco. Compreso. Come te comunque... Ah, ragazzi, ma che si camera, fanculo, brutto animale, ragazzi. Non lo voglio più bere, ragazzi. Non lo voglio dire, guarda, li hago ogni lì, non sa che me la soffre. Ehi, fatti, fatti. Oh, io, è tanto, guarda lo zampe qua che mi sta aspettando, adesso ce l'ho portato, dice lui. Come te? C'ho quattro zampe che mi sta aspettando a portarlo giù. Ehi, va là. Devo conoscerlo, mi. C'è la vostra trasmissione, c'è da voi, ma magari... Con mani vacchiose da voi entro in che mi chiede che manda in mi ha fatto due di Eccas. Compreso, adesso manca l'unzio, la gente lo squartatore sul mondo. Eia, va bene, dai. Andiamo magari più saltato lo sentivo solo. Eia, lo sentiamo, ciao ciao, buon proseguimento, ciao. Ciao. Ciao. Yeah.